Mille stelle luccicanti qui nel firmamento mio, brillano come diamanti e ciascuno al posto suo. Era buia quella strada, un vicolo cieco ormai. Loro l'hanno illuminata, l'hanno resa un viale poi, ed immagino che tutto ciò per me non abbia senso, ma intanto ci penso. Camminavo per la strada, all'incrocio era lì, qualcuno che mi aspettava, che passava già di qui, che mi prese per la mano, gesto inconfondibile. Per accompagnarmi piano verso l'impensabile ed immagino colline verdeggianti un po' scoscese, immense distese dove poter correre senza limiti. Non voglio piangere per te. Non voglio piangere. Passeggiando per Milano, guarda quanta folla c'è. Io mi sento così strano, sono solo senza te. 100.000 e più parole che ci siamo detti. Ora restano nel cuore e non se ne andranno mai. Ed immagino un altopiano infinito in fiore, l'immenso candore di una piazza grande con le campane a festa. Voglio viverle con te. Io voglio ridere con davanti alla nostra strada, ora un altro incrocio c'è. D'improvviso l'ha imboccata quella via senza di me. Io proseguo per la strada, quanto è lunga la mia strada.